strange sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the answers, leave them for another day. Siamo arrivati al 5 febbraio del 2024, inizia Disorder anche per questa sera. La frequenza naturalmente è sempre quella, 87.9. Il sito è www.ondarossa.info, sul quale sito si possono trovare le varie modalità di adizione, elettroniche o meno. Ormai la nostra storia comporta il fatto che questa è una realtà da sempre autogestita dalla sua nascita, situata nel lontano 1977, quindi nessuna forma di pubblicità o padrini economici o politici, nessun partito di mezzo. Cominciamo a salutare, un saluto ad Anna, spero in rapida guarigione qui a Roma. Ernesti, Panico Brusati, di Panico de Palcoscenico, venusi a Sozzetta Stramonio. Abbiamo Blocco Nero con Enrico Marchegiani, Tiziano Farinacci di P. Greco, Doriana Panico a Taranto, Nicola Locci in quel della Sardegna. Sara invece sta a Berlino. E poi Francesco Cornello, Simone Scalese di Audio Caos, Stefano Romani di Artificial Heaven, nuova realtà gothic rock romana, Marco Mascia di Progetto Sonoro, Maglia in Umbria. Torniamo a Roma con Mariano. E poi in mezzo alle montagne c'è Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo. Allora, come è consuetudine delle ultime puntate, cominciamo con Songs of an Earthly Longing, un esordio discografico per i sardi Kalitis, con Maralasi e Daniele Serra. E con il prezioso apporto vocale di Daina Dieva, quest'ultima proveniente dalla Lituania. E quindi, come vi ricorderete, ci andremo ad inoltrare in sonorità, diciamo, neoclassiche, neofolk in certi frangenti, in altri anche più epici. E anche per questa sera ci andiamo ad ascoltare due tracce. È il turno della breve interlude e poi la più sviluppata Open This Door. Thank you. Di sensazioni sonore, emotive, dove si possono trovare dei passaggi che ci riportano a una certa epicità, passaggi più neoclassici e naturalmente acustici, sognanti al loro modo, che fanno di questo album dei Kalitis uno dei migliori di questo inizio del 2024. Ancora una volta dalla Sardegna, terra veramente piena di talenti musicali in tanti ambiti. Saluto intanto Noise Cluster con Flavio Derbecante, Arianna Degni Lombardo e Marcello Buffetti di Monum. E dunque un album pieno di potere fortemente evocativo. Paralasi. Daniela Serra. E questa splendida voce che sta andando sotto la mia, di Daina Di Eva, un album che ci ascolteremo per la sua interezza. Abbiamo per adesso ascoltato le prime 6 tracce, il prossimo lunedì andremo alla conclusione con le ultime 2. Da menzionare anche il lavoro di Simon Balestrazzi, celebrità della musica, diciamo, sotterranea italiana. E sì, Calitis era un album, come ho detto, dall'alto contenuto onirico e così intimista. Andiamo invece in maniera antitetica dall'amara, progetto, diciamo, di ispirazione anche neofolk, se vogliamo, che della verità della strada, del sangue, di storie di perdenti e di amore delusi, fa, diciamo, sfoggio in tutte le tracce, sia di questo In Vino Veritas, sia degli album del passato. Una bella, diciamo, caratteristica di questo ultimo loro lavoro è anche la presenza di riferimenti storici e artistici del passato, a cominciare da questa Mamì, vecchia canzone della Mala Milanese, scritta da Giorgio Strehler, da Strehler e Fiorenzo Carpi. E poi ci sarà Quando è finito il vino, che vedrà verso la fine comparire la voce di un famoso attore del passato che riconoscerete al momento. Yeah. combatteva, io resistevo, chiuso in cantina, solo. Senza luce, senza acqua, sempre vino, solo vino. Ed è uscito quando è finita la guerra? No, quando è finito il vino. E finiva dunque in questo modo con il vocione e l'arte di Alberto Sordi, campionato dalla Mara. Riferimenti dunque del passato anche in Mamì, trailer di Fiorenzo Carpi e appunto questa Quando è finito il vino, che andava a concludere in Vino Veritas, che conteneva anche una cover di Piero Ciampi. Sempre te. Ossia proprio il vino, quindi come avrete intuito, vorrei risvegliarmi con te. Il vino è molto presente nell'immaginario, con tutto quello che ne consegue nell'immaginario di Lamara. Ci sei sempre te. Con i fumi delle osterie. Ma me effettivamente un misto tra Nanni Svampa, personaggio cardine del cabaret milanese, ripetuto e corretto quasi con una sensibilità stile Coil, come giustamente ci dice Ernesti Panico Brusati. Ti sembra distante o poco importante, ma in fondo al bicchiere ci sei sempre te. Nei giorni che ho perso tu eri con me, nei dolci ricordi io avevo te. Già vi dico che la prossima settimana invece andremo a conoscere Blocco Nero, altro concetto di neofolk proveniente dall'Italia, dove c'è dietro il nostro amico Enrico Marcheggiani. Ma noi andiamo avanti, andiamo da Marcello Buffetti, andiamo da Monum.